C'è una frase latina molto facile da capire, lex orandi, lex credendi. È legge di preghiera? Lex orandi. Stai tranquillo, è anche legge di fede, lex credendi. Per questo se oggi preghiamo Dio in compagnia di San Gregorio Magno, io ve ne voglio parlare. Non è perché per un momento trascuro oggi la parola di Dio che io sono fuori della visione della Chiesa, anzi, vi voglio parlare della santità della Chiesa. E se la Chiesa ancora, quest'uomo è morto nel 604, non 1600, 604, quindi sono passati più di 1400 anni. Eppure la Chiesa continua a proporlo, continua alla nostra attenzione, alla nostra conoscenza, alla nostra preghiera, ma in genere non si spiegano mai queste cose, mai. Andiamo avanti da decenni, da tutta la nostra vita, a celebrare, a festeggiare San Gregorio Magno. E chi era costui? Chi lo sa? Ma se viene chiamato Magno, grande, c'è un perché. Se è un dottore della Chiesa, c'è un perché. Io vorrei oggi dirvi due parole su di lui. Nacque a Roma intorno al 540 da nobile famiglia. Per dire il calibro suo, divenne prefetto di Roma. Era mica prete, laico, funzionario, prefetto. Abbandona tutto e diventa monaco. Il Papa, vedendo questo nuovo religioso, conoscendo la sua calibratura, subito lo fa suo delegato pontificio a Costantinopoli, che era la capitale del mondo orientale, no? E poi viene eletto in seguito Papa. E da Papa si distinse per la saggezza del governo. Coloro che guidano a tutti i livelli, che sia a livello di prefetto, che sia a livello di primo ministro, che sia a livello di vescovo, che sia a livello... Dobbiamo pregare per loro. Coloro che governano le aziende, le ditte, dobbiamo pregare per loro, perché se sono saggi ne avvantaggia tutto il popolo. Se fanno sciocchezze la paga tutto il popolo, ma d'altra parte San Paolo l'ha sempre detto, no? Pregate per le autorità perché ci sia un buon governo. E noi preghiamo per le autorità della Chiesa. Che tristezza! Tutte le volte che mi arriva sul cellulare o sul computer qualche parola, qualche frase, qualche video contro Francesco. Che tristezza! Ah, ci sono dei nuovi profeti oggi. Che cosa fece di particolare Gregorio Magno nel guidare la Chiesa? Oltre alla saggezza del governo, ebbe una grande pietà per i poveri, per gli sventurati. Ed ebbe un grande zelo per la diffusione della fede, tant'è vero che mandò in Inghilterra il monaco Agostino, non è Sant'Agostino, immagino sia Agostino di Canterbury, il quale portò tutta la popolazione dell'isola al cristianesimo. Pensate cosa ha fatto, governando la Chiesa, mica ci è andato lui. Però ha saputo scegliere la persona adatta. Si adoperò per condurre i Longobardi alla verità cattolica e a costumi meno feroci. Erano barbari. E li condusse a integrarsi, diciamo, con le genti romane. fu chiamato grande alla sua morte. Cari cristiani, noi preghiamo per coloro che ci governano? No, siamo solo capaci di fare gossip e criticare. Ma io devo pregare, ripeto, per chiunque conduce qualcuno, che sia a livello religioso, a livello politico, a livello amministrativo, a livello di funzionari. Bisogna pregare, amici, perché il Signore crei dei cuori onesti, buoni, saggi, sapienti. La storia dirà di Francesco, ma io lo vedo inserito in una bellissima teoria di santi papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Ratzinger, Francesco. Io quando sento parlare male di Francesco, a me viene in mente la parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio. Il pubblicano davanti a Dio diceva: Signore, perdonami. Papa Francesco dice: pregate per me. Poi non c'è occasione che non lo dica. Per favore, pregate per me. Gli altri mi assomigliano al fariseo che dicono: Signore, ti ringrazio che io sono in gamba, mica come questo Papa che conduce la Chiesa al disfacimento, mica come fariseo.